A te è tutto diverso, pochi rumori, poca gente in giro. Solo luce accesa e qualche cane che cerca da mangiare. La notte sembra tutto uguale, sembra tutto un po' normale. La notte tutti dormono e non c'è casino. La notte è questa, un silenzio generale. La notte è fatta per pensare, per guardare nelle coscienze di chi ha fatto male. La notte è fatta per amare, la notte è fatta per chi si ama. La notte fa capire qualcosa di noi stessi, la notte fa sognare momenti che non sono nella realtà. Notte come così, ha una lacrima e un sorriso, ha una chiacchierata e un bicchiere di vino. Notte è così. Ha una lacrima e un sorriso, ha una chiacchierata e